Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Mentre sono ancora in corso le ricerche delle vittime di sabato notte, che sarebbero fra le 700 e le 900, un altro naufragio nel Mediterraneo, in Grecia, 200 a bordo. L'Italia non può essere lasciata sola, dicono Francia e Germania. È in corso il vertice dei ministri degli esteri e degli interni in Lussemburgo. Gentiloni dice: in gioco la reputazione europea. Si vagliano soluzioni, compresa quella di un intervento in Libia contro i trafficanti di uomini. Operazione della polizia a Palermo, intanto in manette i vertici di un'organizzazione che portava migranti in Italia. Tra le altre notizie resta in primo piano lo scontro all'interno del Partito Democratico sulla legge elettorale. Verranno sostituiti i membri della minoranza in commissione affari costituzionali, membri della minoranza che non ci stanno, ne ospiteremo uno tra poco. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci, il nostro sito www.radio24.it e la sezione di Effetto Giorno sul sito di Radio 24 e durante la diretta il numero di sms è il 349-238-6666. Dunque riprendiamo in parte il filo dalla trasmissione di Gianluca Nicoletti, come avete sentito, dedicata a quello che è successo nel Mediterraneo, perché è una giornata intensa anche sul fronte della cronaca. Naturalmente dal lato delle ricerche dei corpi al largo della Libia, dove è avvenuto il naufragio, mentre in queste stesse ore, come già vi dicevamo nei titoli, sta arrivando notizia di un altro naufragio, in questo caso al largo della Grecia, al largo dell'isola di Rodi. Nel frattempo sono riuniti i ministri degli interni e degli esteri europei, si vagliano delle soluzioni, arrivano anche delle dichiarazioni del procuratore di Palermo, Scalia, che dice in Libia pronti a partire ci sarebbero 1 milione di migranti. Iniziamo però dalla cronaca, dalla pura cronaca di quello che sta avvenendo in queste ore, e un punto con Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno ai radioascoltatori. Come dicevi, c'è stato questo naufragio davanti all'isola di Rodi nel sud-est del mare Egeo. 3 migranti, tra cui un bambino, sono morti in questo naufragio. Altri 80 persone sono state salvate, ma si teme che a bordo fossero circa 200. Lo ha riferito una fonte della polizia portuale greca, precisando che 57 sono i sopravvissuti e 23 sono già stati trasferiti all'ospedale di Rodi. Nelle ultime settimane sono aumentati gli sbarchi anche verso la Grecia. Più di 700 persone sono arrivate la settimana scorsa sull'isola di Mitilene nel nord-est del mare Egeo. E intanto proseguono le ricerche nel Mediterraneo delle vittime e di eventuali sopravvissuti dell'ultimo naufragio nelle acque libiche fra sabato e domenica. 28 le persone salvate, 24 le vittime. Il generale della Guardia di Finanza che sta coordinando i soccorsi, Antonino Iraso. Il nave Gregoretti della Guardia Costiera è arrivata a Malta per sbarcare i cadaveri. E nella zona operazioni rimane una nave della Marina Militare e una unità della Guardia di Finanza più altre navi civili per continuare le operazioni di ricerca di eventuali naufraghi. Che quindi continuano? Ancora continuano, sì. Avete qualche novità, speriamo, assolutamente, positiva? Assolutamente no. Tutto negativo, purtroppo. Nelle prime ricostruzioni si era parlato di 700 morti, ma un superstite del Bangladesh ricoverato ieri in ospedale a Catania, ascoltato dai magistrati, ha parlato di 900 persone. Se anche fossero 700, dall'inizio dell'anno sarebbero oltre 1650 le persone morte nel Mediterraneo. Per ora è tutto. Grazie Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti e naturalmente, come sempre in questi casi e come avviene, si invoca l'aiuto dell'Europa. In corso un vertice dei ministri degli esteri e degli interni dell'Unione per pensare a possibili soluzioni. Tra i paesi però c'è qualche contrasto, anche se nella giornata di oggi prevale la solidarietà. Anna Marino, è così? Buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Si è aperto con un minuto di silenzio in memoria delle vittime il Consiglio europeo dei ministri degli esteri e degli interni dell'Unione europea a Lussemburgo. Il tema immigrazione è stato inserito d'urgenza oggi. L'Europa deve fare di più e l'Italia non deve essere lasciata da sola, secondo il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, perché è in gioco, dice, la reputazione dell'Unione europea. Ha rilanciato l'appello del governo a un'iniziativa comune europea contro le richieste. Sentiamo. La minaccia principale viene dall'organizzazione del traffico di esseri umani, perché la tragedia dell'altra notte non è causata da una mancanza di soccorsi, perché purtroppo i soccorsi erano presenti quando si è realizzata la tragedia, e quindi ci vuole un impegno politico a sostegno dell'azione di contrasto ai trafficanti. E già adesso accoglie l'Italia i 2/3 dei migranti irregolari che raggiungono il territorio dell'Unione Europea, soprattutto se aumenta, non può essere qualche cosa che solo l'Italia da sola sulle proprie spalle porta avanti. Gli fa eco l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini. Di fronte alle tragedie di questi ultimi giorni, mesi e anni, l'Unione Europea non ha più alibi, dice, è una strage europea, e sottolinea quali saranno i prossimi passi concreti dell'Europa. Abbiamo convocato per oggi pomeriggio tutte le opzioni che abbiamo a disposizione come Unione Europea per sostenere la Libia in caso di accordo su un governo di unità nazionale, ma anche per far fronte alle due grandi sfide sulle quali dobbiamo lavorare come europei indipendentemente dal raggiungimento di un accordo, ovvero il controterrorismo e i flussi migratori, i flussi di richiedenti asilo. Come dicevi, Simone, continuano le resistenze di alcuni paesi, le politiche di immigrazione infatti sono sovrane, ma l'Europa intanto fa autocritica. Il presidente dell'Europarlamento Schulz ammette: abbiamo fatto poco. Di oggi le parole del governo francese: non siamo stati all'altezza della situazione. Poi anche le parole di Stephen Seibert, portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, in contatto ieri con Renzi, ha detto: l'Italia non è sola, e per ora è tutto. Grazie Anna Marino per questi aggiornamenti. C'è poi un fronte più puramente italiano. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Per il fronte italiano partiamo allora dal presidente del Consiglio Renzi, che tra breve vedrà a Palazzo Chigi il primo ministro di Malta, Muscat. Malta, che insieme al nostro paese è coinvolta nelle operazioni di soccorso del barcone affondato tra sabato e domenica. Alle 14.30 vi dovrebbe essere una conferenza stampa congiunta dei due leader. Renzi è tornato intanto questa mattina a chiedere che l'Italia non sia lasciata sola e che vi sia un intervento rapido dell'Unione Europea. Contro gli scafisti, ha detto il presidente del Consiglio, è possibile un'operazione condivisa in Europa ma mirata. Ci sono tutte le condizioni per farlo. Renzi ha rinnovato quindi la richiesta della convocazione di un Consiglio europeo straordinario ed è escluso per il momento un intervento di terra in Libia. Il premier ha fatto riferimento poi alle polemiche politiche di queste ore in Italia. La richiesta di Salvini di un blocco navale da una parte, l'invito a lavorare uniti di fronte all'emergenza di Berlusconi dall'altra. Berlusconi ha commentato allora Renzi, ha detto cose molto più sagge di Salvini: quando ci sono questioni come il naufragio di sabato notte evitiamo di fare polemiche interne. Il leader della Lega però ha rinnovato le critiche all'esecutivo. Alfano non è all'altezza, ha spiegato Salvini, il cinismo è di chi conta i morti. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Oggi a Palermo un'operazione importante contro il traffico di esseri umani. Una rete internazionale con base in Sicilia capace di fare soldi a palate grazie al traffico di esseri umani. Una conferma che arriva dal blitz della polizia che nella notte ha portato in carcere 24 persone, tutti stranieri che dalle province di Palermo, Agrigento e Catania gestivano la tratta dei migranti. Gli arrestati, grazie a un decreto di fermo della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono eritrei, etiopi, ivoriani, guineiani e ghanesi, capaci di garantire ai migranti, soprattutto provenienti dalla Libia, le coperture necessarie per arrivare in Sicilia e da qui transitare verso il nord Italia o il nord Europa. Viaggi massacranti che i migranti pagano cari. Dalle intercettazioni emerge che per un solo viaggio i trafficanti si mettono in tasca 1 milione di euro. Ecco il racconto del capo della squadra mobile di Palermo, Maurizio Calvino. Tutti questi disperati che dai rispettivi paesi, Eritrea e Somalia in primis, raggiungono attraverso viaggi lunghissimi, faticosissimi e pericolosissimi, pagando fior di somme di denaro, attraverso ogni genere di sopruso e servizio, raggiungono le coste libiche, da dove a loro volta sottoporranno un ulteriore sopruso relativo a un esborso di denaro. Nino Amatore, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Palermo. E su tutti questi temi torneremo più avanti nel corso della trasmissione. Parleremo con Francesco Vezzaro, il sindaco di Vigo d'Arcere del Partito Democratico, che ha minacciato le dimissioni nel momento nel quale gli hanno detto che sarebbero arrivati 100 profughi in una caserma della sua città, del suo paese, perché c'è anche questo fronte, il problema dell'accoglienza. E poi parleremo con Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per fare un punto su quali soluzioni potrebbero essere in campo per combattere i trafficanti di uomini marocchini direttamente in Libia. Intanto passiamo alle altre notizie e passiamo a quello che sta succedendo dal lato della legge elettorale, perché questa sera i 10 deputati della minoranza del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali potrebbero essere sostituiti affinché la legge passi il vaglio appunto della Commissione. C'è in Commissione Affari Costituzionali anche Giuseppe Lauricella, appunto del Partito Democratico. Buongiorno Lauricella e benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie. Si fa la sostituiscono, che fanno? No, non credo. Perché? Non credo che mi sostituiscano. No, io non sarò sostituito quasi certamente, perché io ho assunto già dalla riunione del gruppo alla presenza del segretario una posizione differenziata rispetto a quella assunta dalla minoranza. Quindi la commissione non mi sembra la fede del... Cioè, il concetto è un po', non le piace questa legge elettorale, però in commissione la vota per rispetto della maggioranza, per così dire? No, la legge elettorale, questo l'hanno detto tutti, potrebbe anche essere migliorata, perché nel senso non esiste una legge perfetta, quindi anche in questo caso siamo di fronte a una legge imperfetta, quindi i miglioramenti ci potrebbero essere, ci dovrebbero essere. Ciononostante, il tema dei miglioramenti è differente da quelli che io ritengo essere punti nodali rispetto a quelli assunti dalla minoranza nell'ambito della riunione del gruppo dell'altra sede. Ultima domanda, la sostituzione di queste 10 persone, secondo lei non è uno strappo un po' troppo forte? Ma guardi, la sostituzione non è una bella cosa, nel senso che se si fosse potuto evitare sarebbe stato meglio. In ogni caso mi pare che sia stata chiesta la disponibilità ai componenti della commissione e ciascuno ha chiesto di essere sostituito poi. Quindi non credo che ci sia stata una sostituzione d'imperio, ci sia stata una sostituzione concordata. Grazie Giuseppe Lauricella, deputato del Partito Democratico. Grazie in Commissione Riforme Costituzionali. Ci sono parole di pochi istanti fa del ministro Graziano Delrio parlando della strage dei migranti nel Mediterraneo. Dice: queste sono ore complicate per il nostro paese, ma siamo orgogliosi, perché quando si salva una vita si salva l'umanità intera. Delrio ha parlato probabilmente a margine di una conferenza alla quale c'è la nostra Livia Zancaner, il che ci consente di passare a parlare di Expo, perché oggi è stato presentato uno snodo importante, quello dell'aeroporto di Malpensa. Livia, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, siamo qua al Terminal 1, appena ha finito di parlare il ministro Delrio, che ha detto: sono venuto qua a dire a nome del governo che siamo orgogliosi di essere italiani, Expo sarà un successo. E qui ha fatto poi il passaggio sull'emergenza immigrazione, ha detto: siamo orgogliosi del lavoro che stanno facendo Marina Militare, Capitaneria di Porto e tutti quelli che stanno lavorando in queste ore. Allora, qui a Malpensa hanno presentato il nuovo progetto, quindi Milano Malpensa è pronta per Expo 2015, i lavori sono iniziati un anno e mezzo fa, 30 milioni di euro gli investimenti, ci saranno nuovi controlli di sicurezza spostati al piano check-in, poi c'è la nuova galleria commerciale, le nuove piazze del lusso e del gusto. C'è stato il taglio del nastro dell'inaugurazione, presenti Delrio, il presidente di SEA Modiano, il presidente della regione Lombardia Maroni. Modiano ha detto: siamo pronti a raccogliere la nuova sfida, basta rimpiangere all'Italia. E il presidente Maroni ha spiegato che il 75% dei visitatori di Expo passerà proprio per la Malpensa e che per quanto riguarda i collegamenti ci sarà un treno ogni 15 minuti da Malpensa a Milano. Maroni ha chiesto nuovamente l'impegno del governo e Delrio ha assicurato che il governo punterà sempre su Malpensa, quindi sono previsti probabilmente nuovi investimenti, passeggeri adesso sono 18 milioni, l'idea è comunque di incrementarli. Grazie Livia Zancaner per questo aggiornamento. Oggi la commemorazione a Roma per la morte dell'ex rabbino capo di Roma Eliot Toaff, commemorazione che ha seguito la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, dal ghetto di Roma, da quello che era il ghetto di Roma, c'è grande commozione qui davanti al Tempio Maggiore, alla sinagoga centrale di Roma, sul Lungotevere, per l'ultimo addio a Rav Elio Toaf, morto, ricordiamo, ieri all'età di 99 anni. Tutti i rappresentanti della comunità ebraica sono venuti a rendere omaggio al rabbino capo della comunità di Roma dal dopoguerra al 2000, che di fatto traghettò la comunità ebraica dalla Shoah, dalla deportazione nel ghetto il 16 ottobre 43, all'incontro in sinagoga con Giovanni Paolo II. Livornese di nascita, Toaf fu romano d'adozione e verrà seppellito a Livorno accanto alla moglie. Molte le cariche dello Stato venute a rendere omaggio a Elio Toaf. In questo momento è venuta la Presidente della Camera Laura Boldrini, anche l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ieri è stata la volta di una preghiera qui in sinagoga durante la serata ed è venuto il Premier Matteo Renzi e il Sindaco di Roma Ignazio Marino. Tra poco il feretro lascerà il colonnato, perché per la legge ebraica una persona deceduta non può entrare in sinagoga, e ci sarà un piccolo corteo funebre attorno alla sinagoga, al Tempio Maggiore, per poi dal Lungotevere partire alla volta di Livorno. Immaginiamo tutti quanti, tutta la comunità ebraica di Roma, che è venuta proprio a rendere omaggio a quello che è stato definito un grandissimo rabbino, che ha saputo ricostruire la comunità ebraica dopo la Shoah. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Proprio a proposito di questo, più avanti sentiremo un passaggio dell'intervista che aveva realizzato il nostro Dario Ricci con Elio Toaf per i suoi 90 anni, un passaggio dedicato, visto che ci avviciniamo all'anniversario della liberazione, proprio ai suoi anni nella resistenza. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, è il momento di parlare un attimo di sport con il nostro Carlo Genta, uno sport che ci racconta soprattutto di motori in mancanza d'altro di divertente, Carlo. Sì, no? Sì, vabbè, però tanta roba, invece strade non quelle che siamo abituati a percorrere, ma piste. Ieri Valentino Rossi ha fatto una gara indimenticabile in Argentina, ha battuto Marquez, ma è stato l'intero sviluppo della gara, da quelli che avranno palleggiato tra un derbino di Milano e questa grandissima gara, poi penso si saranno fermati sulla rimonta di Valentino Rossi, che era partito ottavo e da lì non ha sbagliato più niente. Nella rimonta verso il paradiso ha superato prima un Lorenzo frastornato, poi Espargaró, poi le Ducati, che comunque sono andate forte, poi Crashlow, che ha fatto una gran gara ed è andato a riprendersi a suon di record della pista, è andato a riprendersi Marquez a 4 giri dalla fine. Da lì duello corpo a corpo che non è durato tantissimo per l'irruenza dello spagnolito, probabilmente non abituato a sentirsi sotto pressione. Stava facendo la solita gara in solitaria, è arrivato Valentino Rossi e c'è stato questo corpo a corpo, un contatto, responsabilità di Marquez non ammessa peraltro alla fine, ha detto queste sono le corse, ma è chiaro che la colpa è stata sua. E Valentino Rossi 110 vittorie, primato nella classifica del mondiale, adesso dopo queste prime tre gare, due delle quali vinte, si arriva finalmente in Europa, prossima fermata a Jerez della Frontera, e non vediamo l'ora che sia quel momento. Bene anche le Ferrari con Raikkonen che ha battuto la Mercedes di Rosberg, è arrivato secondo, grandissima gara del pilota della Ferrari. Infatti è solo quinto, invece gara di grande sofferenza. Il re anche nel deserto è sempre Lewis Hamilton, Simone. Grazie a Carlo Genta, che noi ritroviamo ovviamente a partire dalle 14 in tutti i convocati, e dove partirete immagino proprio dai motori. Ci fermiamo per sentire cosa succede appunto sulle strade. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Sono ancora in corso le ricerche delle vittime di sabato notte, che sarebbero fra le 700 e le 900, mentre c'è un altro naufragio nel Mediterraneo, in Grecia, 200 a bordo, almeno 3 morti. L'Italia non può essere lasciata sola, dicono Francia e Germania, non per la prima volta. In corso il vertice dei ministri degli esteri e degli interni in Lussemburgo, Gentiloni dice che è in gioco la reputazione europea. vagliano soluzioni, compresa quella di un intervento in Libia contro i trafficanti di uomini. L'operazione della polizia a Palermo, intanto in manette i vertici di un'organizzazione che portava migranti in Italia. Visto che si parlava di questo, rispondiamo all'ascoltatrice Carmen che ci scrive via sms al 349-238-6666. Ci raccomanda la distinzione che, come sentite, abbiamo fatto tra trafficanti di uomini e di scafisti, e ci consiglia di sentire tra l'altro una voce nota di Radio 24, Giampaolo Musumeci, che ha scritto il suo libro sui trafficanti di uomini. Lo abbiamo fatto in passato, torneremo a farlo sicuramente. Intanto vogliamo provare a parlare delle soluzioni generali. Lo facciamo con Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Buongiorno. Buongiorno a voi. E bentornato. Che cosa si può fare, Magri? Perché mi sembra che la soluzione non sia per nulla facile. Abbiamo sentito parlare di, nell'ordine, le prendo tutte insieme e senza far distinzioni su credibilità o meno dell'ipotesi: affondare i barconi sul posto, creare un blocco navale, intervenire in Libia. Vorrei prendere soluzione per soluzione e capire con lei che cosa c'è di fattibile e che cosa no. Partirei dalla cosa che a questo punto sembra un po' più probabile, ossia, almeno da quel che abbiamo letto, ossia che si estenda il mandato della missione ONU che in questo momento sta colpendo ISIS in Iraq e in Siria anche alla Libia, che risponderebbe anche all'esigenza di combattere l'ISIS, e farla virare anche sui trafficanti di uomini. Le sembra un'ipotesi probabile e fattibile? Sappiamo, se ne parla da un po', che ci sono resistenze e da parte di vari paesi, e quindi in sé, al di là della variante sugli scafisti, è una strada difficilmente percorribile. Se venisse attuata, potrebbe intervenire con gli scafisti risolvendo un problema di legalità, perché ricordiamo a chi ci ascolta che già è stata attuata questa operazione di far saltare le navi, le barche, e viene fatta dall'Italia in Albania durante la crisi in Albania. Sotto copertura forze italiane distruggevano di lotte le barche. Nel caso dell'Albania però c'era una situazione del governo albanese molto più debole, meno pericoloso di quello libico, perché è un'operazione che, se non c'è una copertura legale, è di fatto un ingresso nelle acque territoriali, quindi l'esercito libico, gli eserciti libici possono reagire. E in secondo luogo, il secondo aspetto differenziante con l'Albania è che allora, e mi collego anch'io al libro di Musumeci che i propri ISPI abbiamo presentato lo scorso febbraio, in Albania all'epoca, quindi parliamo di più di 10 anni fa, il racket del traffico di esseri umani era molto meno sviluppato e specializzato. Io distruggo le barche, ma se dietro c'è un racket organizzatissimo che ormai nelle rotte verso la Turchia utilizza gli yacht, non le barche che vediamo in Libia, distruggo le barche un giorno, ma dopo pochi giorni arrivano da un'altra parte, perché è un racket che muove miliardi di dollari, e quindi c'è un gioco importantissimo. È giusto il commento che ha fatto chi ha chiamato o scritto poco fa la vostra ascoltatrice: c'è da distinguere fra scafisti, cioè quelli che fanno il lavoro sporco, e un'organizzazione criminale transnazionale che controlla pedine in vari paesi. Sì. È la differenza tra la bassa manovalanza e un boss, sì, e un boss, e un boss mafioso. Tra lo spacciatore e il che vende la dose e chi organizza il tutto. Allora, 20 anni fa, non c'era la grande organizzazione, adesso c'è. Il blocco navale, andiamo al secondo punto, sì, che è quello del blocco navale. Il blocco navale e richiede anch'esso una copertura internazionale, perché anche questo vuol dire entrare nelle acque territoriali. Tutti e due i problemi, tutte e due le soluzioni, quelle del sabotaggio, del blocco navale, però non sottolineano un aspetto che non è giuridico ma è etico-morale. Noi stiamo parlando di persone che al 70%, queste sono le stime, quelli che scappano, sono persone che teoricamente hanno diritto ad avere lo status di rifugiato, cioè partono da situazioni che sono infami. Se io li blocco facendo saltare le barche o con un blocco navale, risolvo il problema che percepiamo noi, ma abbandono al loro destino delle persone che hanno fatto centinaia di migliaia di chilometri per arrivare lì e scappare. E non muoiono in mare. Se io presento questa cosa come una soluzione per evitare le morti, certo, non muoiono in mare, ma muoiono nel deserto. come succedeva all'epoca di Gheddafi. Senta Magri, mi chiede un ascoltatore via Twitter, dice: mi scusi, ma non c'è un governo libico con cui discutere, però c'è un esercito libico che può agire per difendere i confini? No, innanzitutto sappiamo che ci sono almeno due eserciti, se vogliamo essere ottimisti, due eserciti libici, l'uno contro l'altro armati. E ci sono poi le varie milizie che sono aggregate o non aggregate a seconda dei momenti. L'ultima cosa che fanno in questa situazione di caos è proteggere i confini. Loro stanno cercando di rubare confini alla parte avversa, non a proteggere i confini verso l'Italia. Mi scusi Magri, e quindi come se ne esce secondo lei, dal suo punto di vista di esperto di questioni internazionali, come se ne esce da tutto questo? Perché il blocco navale, come si dice, è molto complicato e rischia di non salvaguardare le persone. Abbiamo sentito poco fa la trasmissione di Gianluca Nicoletti, i nostri ascoltatori l'hanno sentita, che ha fatto una trasmissione nella quale faceva sentire con un piccolo scatto, un piccolo ticchettio, per far rendere conto agli ascoltatori cosa fosse, cioè ogni ticchettio era una persona che moriva. Allora, quindi quel tipo di intervento non funziona, il blocco navale, anche perché devi coprire 2700 km di coste, sono le coste libiche, e un milione di persone, stando a quello che dice il procuratore di Palermo oggi, che è pronta a partire. È molto difficile l'intervento aereo, perché poi non sai chi vai a colpire. La soluzione politica della Libia è lontana, è apparentemente una situazione senza via d'uscita. Sì, è vero, nel breve periodo, parliamo di breve periodo, l'unica cosa che possiamo fare come imperativo etico e come rispetto delle norme internazionali è salvarli e accoglierli, non c'è alternativa, ma una volta che sono salvati e accolti non devono essere, e questo è l'aspetto che preoccupa l'Italia giustamente, ma trattenuti in un solo paese, ammesso che sia così perché sappiamo che se ne vanno, ma devono essere distribuiti all'interno dell'Europa. Noi siamo molto preoccupati di questi numeri, ma stiamo parlando di numeri che rispetto alla popolazione europea sono ridicoli. E quindi se ci fosse una equa distribuzione, quindi di solidarietà interna, la soluzione del breve periodo di salvarli e accoglierli è l'unica soluzione corretta e fattibile. Siamo attenti, sì, noi italiani, però, su un aspetto: non possiamo, sì, chiedere solidarietà dentro i paesi europei e non applicata al nostro interno, perché in questo momento, de fra le regioni italiane, la Sicilia non sta vivendo un approccio solidale, sta sostenendo il peso più grave. E anche quindi, di questo, quando chiediamo all'Europa di farsi carico dei nostri problemi, teniamo conto che all'interno dell'Italia, se il fenomeno di quelli che arrivano non fosse concentrato soprattutto in Sicilia e al sud, sarebbe anche più facilmente gestibile. Gli egoismi ci sono anche in Italia, non solo in Europa. Di questo torneremo a parlare tra poco. Io intanto la ringrazio, grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Visto che ci avviciniamo al 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo ed è morto ieri agli 8 AF, vogliamo farvi ascoltare il racconto di Toaf degli anni del fascismo, a partire dalle leggi razziali, nell'intervista che aveva realizzato il nostro Dario Ricci in occasione dei 90 anni dell'ex rabbino di Roma, quindi 9 anni fa. Sentiamo. Ero andato a fare il rabbino prima a Ancona e poi a Venezia. La mia reazione fu quella di andare a parlare con l'avvocato Salvatori, che si sapeva essere a contatto con le forze partigiane, e cercare di farmi prendere nella resistenza. Lui mi disse quelli che erano i pericoli a cui si andava incontro, risposi che non me ne importava niente e quindi feci il partigiano sui monti della Versilia. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Scampato all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Quella mattina, quando vidi tre colonne di SS che salivano verso Sant'Anna di Stazzema, io andavo a prendere il latte lì a mezza strada, capii che era arrivato un momento molto grave. Dettero fuoco a tutto, io ricordo circa 500 morti che c'erano nella piazza. Da quel momento io non ebbi più pace, fin tanto che non feci quello che potevi fare. Insieme a altri qualcosa facemmo. Si salvò per una preghiera, di fatto. Certamente, c'è nel Talmud che la preghiera salva dalla morte, e quando io ero già dentro la fossa cominciai a pregare, il capitano delle SS mi domandò cosa dicessi. Gli risposi che dicevo le preghiere che si dicono per i moribondi, dato che non c'era nessuno che l'avrebbe dette per me, me le dicevo direttamente. Mi fece uscire dalla fossa, vidi fucilare i miei compagni e io fui portato in prigione, da dove poi naturalmente scappai. Il racconto di Elio Toaf, morto ieri, che ricordiamo in questo modo. Noi ritorniamo tra un attimo a parlare di immigrazione, lo faremo proprio parlando di solidarietà e di accoglienza con un sindaco del Partito Democratico che ha protestato per l'arrivo di 100 profughi sul suo territorio. Prima ci fermiamo e c'è la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sulle coste libiche ci sarebbe almeno 1 milione di migranti pronti a partire per l'Europa, dice il procuratore aggiunto di Palermo, Maurizio Scalia. Mentre proseguono le ricerche delle vittime del naufragio di sabato notte, c'è stato un altro naufragio in Grecia. Almeno 3 vittime a bordo del barcone, sarebbero stati 200. L'Italia non può essere lasciata sola, dicono Francia e Germania. In corso il vertice dei ministri degli esteri e degli interni in Lussemburgo. Secondo alcune indiscrezioni si andrebbe verso la ricerca di una soluzione complessiva che metta d'accordo tutti. E poi quali sono le soluzioni? Se ne vagliano varie, compresa quella di un intervento in Libia contro i trafficanti di uomini. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Stanno arrivando molti sms sul tema dell'immigrazione, solo per chiarire con gli ascoltatori, in questo momento non stiamo parlando di quanti immigrati ci siano in Italia, non solo della questione dell'accoglienza, abbiamo parlato fino adesso solamente della questione del salvare le vite in mare, e sarete ben d'accordo che si tratta di una questione differente. E all'ascoltatore che dice questi disgraziati si devono prendere percentualmente i paesi più ricchi, sappiate che dato del 2015 Eurostat, la Germania ha 245.000 richiedenti asilo contro i 50.000 dell'Italia, quindi evidentemente questo già avviene. Francesco Vezzaro, sindaco di, forse sbaglio l'accento, Vigo d'Arzere. Allora, lo stavo prendendo giusto, siamo in provincia di Padova, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, buongiorno. So che insomma, c'è stato un po' di confusione il fine settimana, perché le hanno detto che sarebbero arrivati 100 profughi in una caserma, che ex caserma, che insiste sul vostro territorio. Poi lei ha minacciato le dimissioni, lei è del Partito Democratico, per questo che la cosa ha fatto notizia, ha minacciato le dimissioni e poi queste dimissioni sono rientrate, ma i profughi arrivano oppure no? Guardi, noi adesso non abbiamo ancora informazioni in questo senso. Io ritengo che il problema sia ancora aperto e che non sia possibile dire non arriveranno più. Però il tema non è tanto che io non voglia che i profughi arrivino o che io non voglia che il mio comune dia il suo contributo. Io sono per dare un contributo che però deve essere equo e ridistribuito fra tutti i comuni. Faccio un esempio: se in Veneto ci sono poco più di 500 comuni e il prefetto dice si devono allocare 700 persone, che problema c'è a suddividerselo? Nessuno. Cioè, però magari però c'è anche una questione, certo, di strutture, immagino, no? Certo, immagino, certo, che se la caserma, certo, è sul vostro territorio, non è che è sul territorio di un altro comune. Ma vede, allora bisogna che ci mettiamo d'accordo anche con i comuni vicini. Non è il mio l'unico comune in cui esiste la caserma. È unico invece in una cosa: è l'unico comune della provincia di Padova in cui una caserma dismessa è stata riutilizzata per usi di protezione civile e diventerà futura cittadella della sicurezza, perché ospiterà anche la polizia locale, la Croce Rossa e i carabinieri. Quindi mi sembra esagerato dare retta a chi dice su strutture abbandonate no, qui non si passa, mentre su strutture che hanno un utilizzo e un progetto importante che dura da 7 anni, allora, siccome io non ho rifiutato a priori l'ingresso dei profughi, perché l'ho accettato anche in passato, si debba dire allora andiamo da te. Questo è l'argomento, non è assolutamente non li vogliamo, si tratta di dire distribuiamoci il carico, perché se i sindaci che dicono qui non si passa hanno ragione, allora cerco anch'io di trovare le mie ragioni, capisce? Sì, senta Vezzaro, avrà sentito, immagino, un po' in giro anche altri suoi colleghi del suo stesso partito, dico chiaramente non i sindaci leghisti, che hanno una posizione, sì, molto netta su questo. Sì. Anche loro manifestano disagio, anche i suoi colleghi del PD sul territorio? Certo, ce ne sono alcuni che manifestano lo stesso disagio, perché poi alla fine affrontare il problema concreto non è poi così semplice e dobbiamo affrontarlo poi davanti a tutti i cittadini, anche quelli che non ci hanno votato evidentemente, per cui la percezione di questo problema è un problema che va accompagnato e che va affrontato secondo le forze che ciascuna comunità è in grado di offrire. Noi abbiamo ospitato in passato, nel 2012, altri profughi che pure richiedevano asilo politico, abbiamo istituito per loro un fondo per gestire i denari che ci venivano trasferiti, li abbiamo accompagnati ad apprendere un mestiere e ad apprendere la lingua italiana. Quando hanno terminato la loro permanenza, con il fondo, con ciò che era rimasto del fondo accantonato, abbiamo procurato loro i documenti, sono andati chi in Germania e chi in Svezia, e ci hanno anche ringraziato poi telefonicamente, certo, di quello che abbiamo fatto per loro. Certo. Quindi, non c'è problema, quindi, però bisogna dimensionare questa questione e questo problema e distribuire. Capacità, sì. E distribuire. La ringrazio, grazie a Francesco Vezzaro, sindaco di Vico d'Arcere, siamo in provincia di Padova, sindaco del Partito Democratico. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, che ci parla oggi di magistrati. L'ANM è l'organismo di rappresentanza per eccellenza dei magistrati. È composto da molte anime di diverso orientamento culturale, giurisprudenziale, unità per la Costituzione, area, autonomia e indipendenza, magistratura indipendente. Il presidente Rodolfo Sabelli e il segretario Maurizio Carbone hanno dunque il difficile compito di salvaguardare il ruolo di indipendenza della magistratura dai ripetuti attacchi di diversa provenienza politica, ma anche trovare la difficile sintesi dei differenti e spesso opposti orientamenti. Il tema dell'ultima assemblea straordinaria era quello spinoso della responsabilità civile. Su questo punto i magistrati si sono divisi per la prima volta e non hanno trovato alcuna unità. La proposta di autonomia e indipendenza, magistratura indipendente, di rispondere al provvedimento legislativo con uno sciopero nei giorni 22, 23 e 24 di giugno è stata sonoramente bocciata e ha prevalso la linea di unità per la Costituzione area. Il documento con cui termina l'assemblea è qualcosa di anomalo rispetto alla storia di questa associazione. L'ANM chiede alla maggioranza di governo di farsi carico dell'esigenza di stroncare sul nascere azioni pretestuose, scrive, o che si presentano manifestamente infondate in materia di responsabilità civile dei magistrati, attraverso meccanismi che impediscano un uso strumentale dell'azione contro lo Stato, volta a rimettere in discussione in modo non ammissibile, dice l'ANM, gli esiti di vicende processuali definite o magari ancora in corso di definizione. Il riferimento ai processi contro Silvio Berlusconi dunque non pare casuale. La ANM ritrova unità soltanto sul nemico di sempre, ma il problema resta. La responsabilità civile come risarcimento legittimo degli errori commessi oppure come punizione politica o peggio ancora bavaglio? Traffico.